La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Voglio ringraziare molto Franco De Bonis, che scrive da Fondi, una lettera però personalissima che non posso leggere e che è incantevole fin dalla grafica, con questa bella grafia antica a penna su un grande foglio protocollo a righe. Franco critica la mia invettiva contro Roma, però ecco, Franco, era una trasfigurazione artistica, non era una guida turistica della città. Io spero che, per qualche caso fortunato, Eleonora Ianni ci stia ascoltando, o magari qualcuno che la conosca e glielo dica. Perché è successo questo: ho ricevuto una bellissima lettera, ma non so quando l'ho ricevuta. Perché nelle rivoluzioni delle carte che si fanno a fine anno, nella speranza estrema e perfin patetica che finalmente l'ordine sia perfetto come in paradiso, mi sono trovata in mano questa lettera che non avevo mai visto prima, stampata di 3 pagine, scritta da Eleonora, ma non so quando, perché io ho il vizio di stampare, perché sono del tempo della carta e ci rimango, sembrandomi poi di possedere il documento in eterno una volta stampato, perché io ho questa fede superstiziosa nella carta. Invece ho ritrovato solo l'allegato e la prima pagina con l'indirizzo è andata smarrita. È una lettera di bellezza sorprendente e mentre la leggevo io arrossivo dentro e fuori, pensando che lei mi avrà creduta così rozza, così insensibile da non rispondere ad un tale scritto. Avrà pensato che ero proprio un'anima di legno. Eleonora ha 19 anni e mi descrive il percorso della sua vita e un po' anche della mia. È una delle pochissime volte in cui qualcuno abbia letto i miei libri con lo stesso spirito con cui li ho scritti io. E poi, Eleonora, sembra che tu conosca la mia famiglia, i nonni, i bisnonni, che spesso poi sono i modelli dei miei romanzi. Non è una lettera, è una visione. E mi sono specchiata in te. E ti dico grazie, un grazie anche intimidito dal ritardo con cui ti rispondo e che non so nemmeno quanto sia lungo questo ritardo. Quindi, Eleonora Ianni, se ci ascolti, per favore, ti prego, scrivi ancora. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Ho 18 anni. Non ho mai voluto fare l'amore con i ragazzi con cui sono stata, ma ho conosciuto un uomo di 40 anni, sposato con figli, che mi chiama amore e vuole a tutti i costi uscire solo con me. Gli ho chiesto cosa volesse da me, mi ha risposto la tua anima. Dice che di lui posso fidarmi, che lui desidera solo accarezzarmi. Io sono attirata, ma ho paura che voglia solo divertirsi con me, per poi mandarmi al diavolo quando mi sarò innamorata di lui. E poi, se lo venissero a sapere i suoi 3 figli, fra cui una figlia che è amica mia, mi odierebbero per sempre. Dimmi cosa devo fare. Lia. Ma io non so se quest'uomo è un seduttore. Certamente è un tentatore. È molto abile. Lui dice, ti voglio solo accarezzare. Beh, promessa voluttuosa, promessa impareggiabile. Alla penetrazione sono pronti tutti. Ma quella promessa di una iniziazione tormentosa, ti voglio solo accarezzare. Beh, hai ragione a esitare. Perché se quest'uomo è bravo nell'erotismo come con le parole, riuscirà ad affascinarti. Ti voglio solo accarezzare vuole dire che sarai turbata al punto di pregarlo tu di passare ad altro. Uno che ti sa vergine e ti lancia questo richiamo lo sa bene cosa ci vuole per una ragazza. Una dolcezza insinuante che risvegli il desiderio. Peccato che sia sposato. Per una volta uno che ci sa fare. Forse è vero che vuole la tua anima come ti ha minacciata, perché l'anima di una ragazza è anche il suo corpo e lui saprebbe rendersi indimenticabile. Lo farai, non lo farai? Se lo fai, preparati allo scandalo. È difficile tenere nascosta una storia del genere. Prima o poi l'entusiasmo oppure la vanità tradiscono. Oltre che amanti, è difficile diventare d'un tratto anche dei diplomatici impeccabili. Queste cose stanno scritte in faccia, sicuramente vi tradirebbero. Però permettimi solo di osservare che è uno strano mondo. Una ragazza di 18 anni, bella e affascinante, non trova altro iniziatore che un lumacone di 42, sposato con 3 figli, di cui una è pure amica sua. Hai una sincera disposizione per le situazioni insopportabili. Spero che tu non ti sopravvaluti immaginando di avere la forza di sopportarle. Non sono un giocatore compulsivo, ma ogni tanto un giro al casinò mi piace farlo. Di solito ho fortuna, ma l'anno scorso mi ha detto male e ho chiesto dei prestiti alla mia ragazza, che fa la cameriera in un albergo e aveva un po' di soldi da parte. Prima 300, poi 1000. Alla fine siamo arrivati a 12.000, più o meno tutti i suoi risparmi. Ero sicuro che un certo affare sarebbe andato bene e che gliele avrei ridati subito. Invece non ho visto un euro e nemmeno lei. È che io adesso non sono più innamorato, ma questa cosa mi lega a lei. Se la lascio, penserà che è per non ridarle i soldi. RS. Caro RS, tanto non glieli ridaresti mai in nessun caso. E lo sai bene. È una storia losca questa, squallidissima. Troppi soldi ti sei fatto prestare da lei senza mai ridarli. Hai troppo mischiato l'amore con questo furbo rapporto di sfruttamento. Se hai queste tendenze, te ne devi scegliere una più ricca. Ma hai derubato una ragazza povera, una ragazza che vive del suo lavoro, e adesso è una tragedia. 12.000 euro sono una fortuna, perché era tutto quello che lei aveva, risparmiati euro su euro. E per fortuna che non sei un giocatore compulsivo. E se lo fossi stato, cosa l'avresti preso? La pelle? La nostra era una bella storia. 3 anni di convivenza, di sincerità. Poi, per la prima volta, mi sono innamorata di una donna. E senza che lui se ne accorgesse, siamo state amanti per qualche mese. Dopo, mi sono venuti dei tremendi rimorsi verso il mio compagno per averlo tradito con una donna. Ridevamo di lui, lo chiamavamo il cornuto e parecchi nostri amici sapevano di noi. Sono così pentita di essere andata con una donna. Che devo fare? Mi sento in colpa. Robin. Non ti senti in colpa, lo sei, Robin. Non perché l'hai tradito con una donna, ma perché lo hai tradito. Andare con una donna in sé è un'esperienza così utile, si capiscono tante cose. E cambi il rapporto con le altre donne e anche con gli uomini. Ed è una curiosità segreta che molte hanno e che reprimono, con alcuni danni collaterali. Ma la colpa è che tu l'hai fatto alle spalle e alla faccia dell'ignaro compagno. Non solo gli hai mentito per mesi, lo hai preso in giro con lei e con gli amici comuni, che francamente se ne poteva fare a meno. Ingannarlo già in sé non va bene, ma farne uno zimbello va malissimo, è atroce. Io credo che l'amore sia conoscenza. E che se gli vuoi ancora bene, come fai a non accennare a una parte così importante della tua sessualità e delle tue emozioni? Vivere da sconosciuti, che cimitero. Magari evitando di raccontare la parte in cui lo sbertucciavi con gli amici. Ma se sei sincera nel voler stare con lui, devi starci tutta intera. Se no, meglio finirla. Oppure ti ho tradito. Amami. Forse ti lascerà. O forse ti troverà più interessante, ti troverà vera. Ti prego di pubblicare questa lettera che ho scritto per i miei genitori, sperando che sentendola leggere da un'altra capiscano qualcosa di me. Cari genitori, perché avete messo al mondo dei figli? Per farli crescere in una casa dove le litigate si mettono in tavola come il pane, dove noi non siamo solo spettatori ma le vere vittime, segnate a vita nel profondo dell'anima. Ce l'ho messa tutta per essere una brava figlia, per tappare le falle di questa barca che stava andando a fondo, ma adesso sto andando a fondo anch'io, perché in questi 30 anni, cari genitori, le battaglie le avete combattute voi, ma la guerra, quella, l'ho persa io. Che ancora oggi mi carico del peso dei vostri sfoghi, delle vostre lacrime, e mi ripeto ogni giorno che schifo la mia vita. Ora che vi state per separare, non avete neppure il buon senso di evitarmi quest'ultima raffica di botti che, come dei fuochi d'artificio, verso la fine, diventano più fitti. È la seconda volta in poco tempo che arriva una lettera del genere. Chissà se questo tuo scritto farà bene ai tuoi genitori, ma forse no. Perché chi è così cieco e ignorante dell'altro Chi non ha capito quale delitto sta commettendo lo capirà forse per qualche riga letta alla radio. Anche tu hai sbagliato. Sei stata troppo acquiescente. Ti sei accomodata all'inferno. Dovevi ribellarti prima, dovevi rifiutarti di essere vittima e complice dei loro errori. Hai 30 anni. Da almeno 10 potevi diventare una donna indipendente e matura. Lei è bella, lei è misteriosa, lei mi fa delirare. Eppure è tanto gentile. Sta con me al telefono delle ore, accetta con gioia i miei inviti a cena, ma poi all'ultimo momento mi avverte che non viene. C'è sempre la mia attesa, che viene regolarmente disattesa. E poi ormai lo so, più è dolce e promettente, e più mi sta per tirare il colpo. Che fare? Guido. Ma che fare, Guido? Quello che stai già facendo. Pensi che ti dia un consiglio assennato? Ma no, ma perché mai rovinarti il gioco? Tu nuoti così beatamente, così compiaciutamente in questa nevrosi dolcissima del rifiuto che ti lega moltissimo lei. Se però, nel caso, tu volessi spezzare questo sortilegio, sarebbe facilissimo. Basterebbe che ti negassi tu, per una volta sola. Una volta sola, sai, basta a far ruotare un mondo di soprusi. Attualmente tutti a vantaggio di lei. Dire non vengo. Eternità assicurata, nostalgia, tormento. Lei non vuole piacerti, vuole mancarti. È uno specialista in tortura e forse tu sei la vittima ideale. Divertitevi. Ho 31 anni, ho lasciato mio marito per una passione folle, ma dopo 3 mesi il mio amante si è rivelato un bastardo e sono tornata da mio marito. Lì per lì mi è sembrato fantastico che lui mi riprendesse, visto che avevo bisogno urgente di consolazione e i suoi occhi innamorati, la festa che ero per lui, mi hanno fatto smaltire la delusione. Senza contare vitto e alloggio, visto che avendo lasciato il lavoro per scappare con l'altro, sono disoccupata e non saprei come mantenermi. Però mica sono tanto contenta. Andy. Ma sai, Andy, quanto la disoccupazione non è mica una malattia, Si può curare cercandosele un lavoro. A meno che tu non sia predisposta ad essere mantenuta da qualcuno, che è un'inclinazione come un'altra, se il mantenente è d'accordo. E lui mi pare che non chieda altro che di adorarti. Insomma, l'amante t'ha mollato. Sei tornata dal marito non amato e non sai se vivacchiare o tentare un rinnovamento. Ma hai 31 anni, fa un po' tu. Se ti condanni all'ergastolo, hai presumibilmente da scontare qualche decina d'anni. Se azzardi invece, però io non voglio spingerti sulla via del coraggio. Sii cauta, perché non tutti sono fatti per la libertà. Non tutti trovano la felicità allo stesso modo. E se si ha un carattere passivo, come deve essere comodo questo marito innamorato, quel calduccio, quel non impegnarsi. E poi ormai hai capito che lo puoi tradire quanto ti pare. E non ti mancherà davvero niente se è al niente che ispiri, ovvero a una vita modestamente furba, furbamente modesta. Cara Barbara, voglio molto bene a mia sorella sposata da poco e già incinta. Apparentemente sono due colombi, però appena fa buio, mio cognato mi mette le mani addosso. Mariangela. Ma l'enunciato della tua lettera, Mariangela, è misterioso. Cioè così, appena fa buio, tuo cognato ti mette le mani addosso. Ma dove vivete? In una caverna? Non avete la luce elettrica? È strano oggi perché viviamo tutti pienamente illuminati. Non siamo nell'anno 1000. Non si viene sorpresi dal buio come si legge nei romanzi. Calò il buio. E si accende la luce quando cala il buio. Il buio bisogna cercarlo. Sta attenta. Un'avventura così con la sorella sposina e incinta è già pericolosa, oltre che tremendamente sleale. Ma se vi mettete pure a condirlo con l'ipocrisia, siete veramente fritti. Mio marito è un chiacchierone inarrestabile e io meno disposta ad ascoltare di chiunque. Si è rivelato così dopo il matrimonio. Ma mica se ne accorge. Non sta zitto un momento, dice qualsiasi sciocchezza pur di aprire bocca e poi quando gli faccio delle domande importanti, come per esempio «Ma non pensi che abbiamo sbagliato a sposarci?» oppure «Dopo 2 anni non sarebbe ora di fare un figlio?» diventa muto come un pesce. Ma perché parla tanto, Noemi? Parla tanto perché non ha niente da dire. Parla tanto perché così non pensa. Molto male assortiti. Tu, impaziente e silenziosa, hai sposato una gazza che mai non si cheta. E la tua lettera ha di buono che rovescia la diceria popolare secondo la quale sono le donne campionesse di chiacchiere. Ma tuo marito potrebbe vincere un'Olimpiade. Sarebbe bello poter abbassare il volume degli straparlatori, come si fa con la radio, e ancora meglio spegnerli. Ma purtroppo, Noemi, non si possono spegnere gli uomini. Però si può chiedere una bella separazione. Invece, come minacci tu, di fare un figlio. No, dopo 2 anni non sarebbe ora di fare un figlio. Non con un uomo così vuoto. Uno che ti è antipatico adesso. E figurati se fossi maggiormente legata a lui anche da un figlio. La risposta alla domanda che gli fai, abbiamo sbagliato a sposarci? Tu la sai benissimo, sì, avete proprio sbagliato. E ogni giorno che passate insieme è di troppo. Elvis, puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro. Fra poco qui alla Guardiana del Faro verrà una persona e credo sarà una grande sorpresa. Prima che lei arrivi, vi devo parlare dell'invidia. Ora, di tutti i vizi ci si vanta, meno che dell'invidia e dell'avarizia, che poi spesso vanno insieme. E quindi se uno si dichiara tirchio e invidioso, l'effetto comico è assicurato. Invece se uno dice di non essere invidioso, risulta pure un po' antipatico. Io però mi dispiace, ma ho tanti altri vizi spregevoli, ma di questo non posso vantarmi, cioè non sono incline all'invidia, perché sono troppo edonista. Cioè io sono molto occupata a godermi le mie gioie, ma anche i miei dolori. L'invidia è una disciplina seria, è una cosa severa e non da requie, e richiede una costante attenzione alla vita degli altri, perché l'invidioso è un filantropo rovesciato. La sua missione è vivere per gli altri. Tra l'altro ho notato che non c'è fortuna che possa placare l'invidioso, cioè non è una cosa da disgraziati, non è una cosa da frustrati. Io sono stata perseguitata da una persona piena di talento e di fama che gustava questo banchetto sontuoso e non riusciva a gustarlo per la rabbia di vedermi a me nell'angolo, nel mio cantuccio che rosicchiavo la mia crosta di pane. Però ecco, quanto a me, appunto, di solito sono troppo spensierata e troppo egoista per dedicarmi così totalmente al prossimo. Però, anche se non sono un'invidiosa militante, a tratti capita a tutti di invidiare un talento, un naso, una chiappa, un possedimento. Insomma, succede. Però senza impegno. Ma fino al momento in cui, come dice Salieri nella pièce di Pushkin, io invidio. Profondamente invidio. Chi invidio? La Sora Cesira, l'autrice delle parodie musicali, di solito di argomento politico, che hanno avuto un successo torrenziale in rete. L'autrice di questi video che solo quest'anno sono stati visti da 4 milioni di persone. Da notare che non è che la invidio per nobili motivi, non è che la invidio il talento musicale, che ci sarebbe da invidiare, il talento satirico. No, la invidio proprio per motivi bassi. Per il modo del suo successo, perché lei è famosissima e ignota e nessuno conosce la sua faccia, perché fa ridere mezzo mondo e nessuno sa chi sia. Cioè io credo che se questo termine ormai un po' pacchiano che è star, però diciamo stella, va, che più bello. Questo è essere una stella. Tutti vedono la tua luce ma da lontano. Cioè ti arriva gratis l'amore di chi fai ridere e poi te ne vai zitta zitta per la strada, mantenendo intatta tutta la tua libertà. Di lei si sa soltanto che è romana, che ha 43 anni, che il successo le è cascato addosso come un mattone, sorprendendo lei per prima moltissimo, che lavora con un solo collaboratore misterioso come lei, che però abbiamo saputo chiamarsi Nazareno. Lei e Nazareno fecero questa serie di video che si chiamavano Hardcore Night, le hanno mandati in rete, e vede che c'è un numero di visualizzazioni mai viste. Allora, i suoi soggetti favoriti, per esempio Berlusconi e la Polverini, sembrano fatti apposta per essere messi in satira. Però la Sora Cesira non risparmia nessuno, manco Bersani. E poi Carlà, cioè il video su Carlà che è... O la Cinquetti, che con questo suo visino innocente canta come se fosse un cassiere della Lega. Oppure non perdona al Papa le uscite contro gay. E... uno dei motivi per cui la invidio è andata a farsi intervistare al TG3, ma sempre travisata sotto questo grande cappello, irriconoscibile, e dai pezzettini di pelle si capisce pure che deve essere bella. Ma io immagino, ma quanto si deve divertire questa? Cioè, altro che Peter Pan. No, perché Peter Pan comunque agisce con la sua faccia. Lei invece, travestimento infantile perenne, pensa che leggerezza, che libertà creativa, noi qui tutti attaccati alle nostre piccolissime identità, lei niente. Tra l'altro poi le qualità del video sono professionalmente, come sa chiunque le abbia viste, straordinarie, impeccabili, anche le labiali. E poi questa lingua inventata, questo argot esilarante in cui il romanesco si impadronisce dell'inglese, del francese, dello spagnolo, del portoghese. Però l'attacco d'invidia vero e proprio da far intervenire Padre Amort, mi è venuto quando ha presentato un libro che ha scritto per Mondadori, anche questo con successo, che si intitola Nel bene, nel male e nel così così, firmato pure Sora Cesira, e va in libreria. Allora io dico, stavolta la becco, stavolta si dovrà per forza rinunciare. Invece che fa questa? Arriva con un cappellone, con un enorme cappello fiorito, vestita da casa, col golf un po' bracalento, forse anche un po' sfrittellato. E c'era un mare di persone, una folla adorante che continuava a non conoscere il suo sembiante, con tutto che poi si sia buttata sulla tastiera e abbia fatto dei pezzi di musica. Lei è l'unico pasquino del tempo nostro, perché gli altri eccellenti artisti della satira, sia scritta o teatrale, per quanto bravissimi, non so, i fratelli Guzzanti, Luttazzi, Crozza, oltre ai disegnatori Altan, Disegni, Vauro, comunque firmano, appaiono con le loro identità, quindi sono comunque vulnerabili, si mettono. Lei no! Lei è la voce della rivolta e dell'arguzia, senza volto del popolo. Dicevo prima, lei è pasquino. Sta venendo qui, io non mi illudo, verrà sicuramente travestita. Ecco la Sora Cesira. Buongiorno, passo? Buongiorno, la Sora Cesira, ecco, vorrei descriverla. È arrivata praticamente con un nido in testa, da cui ci sono due occhioni azzurri, però che ogni tanto sai. Almeno gli occhi. Almeno gli occhi, sì, infatti. Mi ricordo camicie verdi di Borghezio, Castelli e Cota, e di come si è sistemato pure un genio di nome Trota. E mi mancherà Calderoli, dava lustro alla mia nazione, e non vorrei avesse inguattato del mal tolto la sua pozione. Cesira, ma come è cominciato questo giocosissimo teatro dell'assurdo? Io ho cominciato da musicista, cioè io ho rinunciato a 6-7 carriere universitarie perché ho scoperto che più di tutti amavo la musica, e quindi mi sono barcamenata per anni facendo la musicista in momenti felici, in momenti più bui, in cui regnava una fantastica disoccupazione. In uno di quei momenti di disoccupazione ho cominciato a fare questi video, ma più per divertimento che per altro, non avevo assolutamente alcuna ambizione. Li ho messi in rete e improvvisamente ho scoperto che funzionavano, che mi divertivo tantissimo, cosa fondamentale, e che la gente li gradiva. E quindi ho continuato a farne fino ad Hardcore's Nights, che ha avuto una cosa come 4 milioni di click, e da allora è partita questa fantastica avventura, che non so quanto durerà, della Sora Cesira. Senta Sora Cesira, finora però abbiamo parlato di un'altra cosa, della mia invidia proprio clinica nei suoi riguardi, per il fatto di questa sua fama e di questo volto ignoto. Ci dice le soddisfazioni reali di questa cosa? La soddisfazione sta nel divertimento. Io dico la verità, mi maschero fra virgolette, perché non ero pronta a essere la Sora Cesira, mi ci sono ritrovata da un giorno all'altro. Ho messo quasi per scherzo dei video in rete e mi sono ritrovata con milioni di ascoltatori, di cliccatori, e quindi ho detto, adesso che faccio? Esco fuori e faccio, non ce la posso fare a questa età, poi allora che faccio? Io non mi presento proprio, mando la Sora, e ho deciso di mandare lei. Quindi c'è questo sdoppiamento a tratti patologico, ma totalmente benefico, che mi fa essere serena nella vita e nel lavoro. Ho creato interamente l'alter ego della Sora Cesira, Cioè, la Sor Cesira in realtà è una casalinga romana del quartiere di Spinaceto, che ha un marito che si chiama Plinio, totalmente asessuato da circa 30 anni, e in preda a una colite oltraggiosa, e due figli, Yolanda Suellen e Fausto Kevin. E lei è aspirante cubista, invece il fratello studia nella scuola per buttafuori, il liceo per buttafuori. E quindi, la Sor Cesira vede il suo paese, vede l'Italia, vede i costumi del suo paese, e attraverso gli occhi di casalinga bonacciona ma saggia lo descrive nel bene, nel male e nel così così, appunto, soprattutto nel così così, perché di fatto noi italiani siamo il paese delle mezze misure, quelli un po' qua un po' là, un po' arraffoni, imbroglioni, simpatici, affabulatori. E la Sor Cesira li descrive quindi nella loro idiozia, ci descrive nella nostra idiozia, quando andiamo al centro commerciale a comprare cose assurde, quando assistiamo a programmi televisivi disumani, facendo così uno specchio dell'Italia che va in qualche modo da qualche parte. Adesso però la Sor Cesira farà uno spettacolo teatrale intitolato Felicità. L'esordio sarà a Roma, all'Auditorium, il 19 gennaio, tra pochi giorni. Alle 21. Cos'è questo spettacolo? Allora, innanzitutto è all'interno del Festival delle Scienze, che quest'anno si occupa proprio della felicità. Quindi ci sono convegni, dibattiti che parlano della felicità. Evidentemente qualcuno sta ancora cercando di capire che cosa sia, dopo migliaia di anni, questa felicità. Io in realtà faccio uno spettacolo che è molto più semplice e, come si faceva a scuola, riduco ai minimi termini o semplifico. E parlo della mia felicità. Parlo di quello che può essere la felicità, che secondo me è fatta di attimi. Sono le sensazioni che arrivano e se ne vanno. È quasi più bello il ricordo della felicità che il momento stesso. Parlo di quello attraverso i video, attraverso delle canzoni, però grazie all'aiuto di una scienziata molto brava, che si chiama Silvia Bencivelli, cercherò anche di raccontare che cosa succede al nostro corpo e alla nostra mente quando siamo felici. Scientificamente? Sì. Io, dal mio punto di vista, posso tentare di farvi fare due risate e di ironizzare su alcuni lati e vizi di persone che cercano di procurarsi la felicità attraverso meccanismi non spesso ortodossi. Per esempio? Le droghe, l'alcol, il sesso estremo, anche la fede. E anche l'esercizio del potere. Può essere anche uno che non conta nulla, ecco. Che però ha nel suo piccolo qualcosa da amministrare, da gestire. Odio la parola gestire, però è di fatto così. Però anche la felicità è altrettanto democratica come il potere, perché la felicità può essere provata da chiunque in qualsiasi momento e in qualsiasi contesto sociale. Quindi io questo ho scoperto, che è ciclica e che è democratica, e in qualsiasi momento ti può cogliere. E non è importanza quale ricchezza tu abbia, quale sia la tua posizione sociale, puoi sentirti felice per strada al semaforo. Ecco, le volevo chiedere, Sor Cesira, ci fa un esempio di sua felicità? Beh, la mia felicità è legata all'infanzia. La mia felicità si verificava di sabato, quando si usciva presto da scuola, poi c'era tutta una giornata che culminava poi nel lettone di mamma e papà, che uscivano la sera perché era sabato, e si vedeva il varietà, e quella per me è una sensazione di felicità che mi sono portata negli anni e che ho riscoperto anche oggi, che non ho più 8 anni, e mi ritrovo spesso a provare esattamente nello stesso modo. E non è una forma di infanzia assoluta questo mascherarsi, come quando si facevano le recite da bambini, questo essere una Sor Cesira? È probabile, ma ne sono fiera, perché nell'infanzia assoluta probabilmente c'è uno sprazzo di felicità. Cos'è, cos'è che fa andare la finanza e infliggere l'ammenda a quelli come me? Che c'è, che c'è? C'è che per un bottegaio sarà un enorme guaio quell'IVA al 23. Perché questo fisco gran ladrone ti induce in tentazione, l'ha fatto anche con me. Così, così, io scontrini non ne faccio, quattrini non ne caccio, dai fallo pure te. Poi quando vedi l'IRPEF te, hai un malore, hai un malore. Ti salvi solamente se sei evasore come me. Com'è, com'è che Equitalia ha rovinato il povero sfigato che non c'ha da magnà? Perché non fa secco il pesce grosso? Perché non molla l'osso con chi ha le pezze già? All'immortè io le tasse non mi accollo, non pago manco il bollo, le imposte sono tabù. Se mate che non si tocca il mio guadagno, io tutto me lo magno finché non ce n'è più. Dai su, vivete come me, dai masore, dai masore. evasore, tanto alla fine sai che c'è, paga un altro anche per me. Che porca puttana, caduto. Ho qualche casa, dovrei pagare l'ICI su queste superfici che non dichiarerò. Non scancio niente, non sono mica pazzo, non ho, gli do una mazza fin quando camperò. Al fisco mai risponderò, manco morta, il mio segreto sai qual è, niente più intestato a me. Puoi lasciare il tuo messaggio nella bottiglia all'828 1111 o alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Scrive Giovanni, ultimamente hai toccato l'argomento dell'aldilà. Hai affermato di non credere alla sua esistenza. Ad un tuo ascoltatore che te ne chiedeva una ragione, hai risposto evasivamente, dichiarando di aver abbandonato la religione in cui sei stata educata. Ora ti faccio una domanda: qual è stata la causa del tuo abbandono o rifiuto del credo in cui sei stata cresciuta? È il comportamento dei cosiddetti cristiani? O quello di alcuni preti? O l'aver giustamente rifiutato un'interpretazione bigotta dei principi cristiani che ti faceva sentire sempre in colpa? Hai veramente approfondito l'assenza del credo cristiano, eccetera? Allora, Giovanni, tu dici che ho risposto evasivamente sul fatto se sentissi o credessi all'esistenza dell'aldilà oppure no, ma io non saprei farci dei grandi discorsi su questo. Mi sembra che l'unica risposta onesta sia una risposta sobria. No, l'aldilà non fa parte delle mie credenze, ma se altri ci credono, beati loro. La loro vita sarà molto più facile della mia, che penso che l'esistenza sia una e corta e che devo far entrare l'eternità in un tempo così breve. E magari cercare di comportarsi sprezzantemente bene per la bellezza della cosa in sé, senza la caramella del premio eterno. Io, Giovanni, non ho niente contro. Magari ci fosse questo al di là, la mia vita sarebbe un ballo. Penserei di poter continuare a vivere, a capire, ad amare, ed essere amata per sempre, rivedere i morti. E magari dopo la morte sarò contraddetta nella mia non credenza. Ma tu puoi assicurarmelo? No. Lo puoi assicurare soltanto te stesso. Se io dico non ci credo, non affermo una verità assoluta. Dico solo che io non lo sento. Ma non sono una razionalista integralista. Non voglio né convertire né essere convertita. E poi vivo di visioni. Sai, è che qui in questi decenni di demenza organizzata la dialettica in Italia non esiste più e domina la retorica da stadio. Siamo le tifosi. Sì, no, bianco e nero, pro, contro, Dio c'è, Dio non c'è, l'aldilà c'è, l'aldilà non c'è. Io credo che su Dio e sull'aldilà siano dei discorsi vani. Le prove che si portano dell'esistenza di Dio sono blasfeme, secondo me, perché la divinità non si può provare. E sono assurde, come quelle che si portano per provare la sua inesistenza. Sono due cose che non possono essere provate. E poi mi chiedi come ho perso la fede, se ho abbastanza approfondito il credo cristiano. Ma sì, tanto da considerare il Vangelo un codice morale insuperato, impraticabile nella sua superbia. Porgere l'altra guancia, amare il nemico, sono delle magnifiche utopie che, attuate anche all'uno per 10.000, farebbero della Terra un posto bellissimo e che restano la mia guida ideale, anche se inarrivabile. Ho anche scritto un libro su Maria di Nazareth. Ma torniamo all'esistenza o meno dell'aldilà. L'unica cosa certa, Giovanni, è il mistero. Tempo fa, dopo che non pensavo a lei da tanto tempo, mi sono ritrovata a scrivere con la grafia della mia amica di liceo, che fu la mia piccola maestra e che morì a 36 anni. Quando mi sono ritrovata a scrivere con la sua stessa grafia, io non mi sono spiegata il fenomeno. Io ho guardato con stupore di selvaggio queste vocali e consonanti e zampette che ripetevano il suo tratto. Ne ho avuto un vorticoso senso di felicità e anche di colpa e di abbandono. Nessun bisogno di capire. Io odio la smania moderna di spiegare tutto. La superstizione positivista è pessima, come ogni altra. Rimasi sconvolta quando seppi che negli Stati Uniti si stava studiando il gene dell'omosessualità. Tu pensa, che orrore, la scienza al servizio della follia, come nel nazismo, spiegazione del diverso, che prelude poi al suo annullamento. L'uomo non ha inventato il mistero. ci vive in mezzo. È la nostra condizione. E l'idea che la scienza possa eliminarlo è stolta e losca. Far luce su tutto cosa vuol dire? Negare la radice della conoscenza. Perché oltre alla luce della scienza, anche l'inesplicabile è il nostro maestro. Io sono cresciuta nel mistero. Il mio primo libro parla di questo. Al mio paese nascevano figli a due teste, in disaccordo fra loro. Le campane suonavano da sole. La notte del Venerdì Santo cadevano i fiori rossi degli oleandri e diventavano bianchi. E sono cresciuta vicina di casa di Satana. Noi credevamo alle nonne che bastasse un segno della croce a scacciarlo. E poi non era vero, perché Satana prendeva tutte le forme. Satana era il mondo. Quando eravamo piccoli, una zitella immaginosa, quelle sorelle di madri che non si sposavano e che diventavano poi le piccole amiche dei figli, ci raccontava delle storie tremende di nani. Nelle sere di vento ci sembrava che l'orco bussasse alla porta mentre le raccontava, ed era pronto a trasformarsi in un uomo molto bello con le dita piene di anelli. E noi questa zitella la chiamavamo mamma, più delle nostre mamme. E poi, dopo questa infanzia paesana, campagnola, sono venuta nel mondo e mi sono trovata nell'inferno del tutto spiegato. Il mistero c'è, è un fatto. È mistero l'odio, la morte, la grande stupidità nostra di uomini che, invece di dividere le risorse della terra, ci sbudelliamo per esse e opprimiamo gli altri, bombardiamo, sprecando per questo molte più risorse. Ed è un mistero anche l'istinto primario dell'uomo, uccidere. Perché? Le spiegazioni ce ne sono tante, ma sono tutte posteriori. Chissà per filo e per segno perché ama un altro, forse non ama. E l'aldilà? Ma che ne so io, Giovanni? Non lo sappiamo, non lo sapremo mai. E della dissennata nostra esistenza, forse, questo è il meglio. Mi ha già telefonato per chiedermi se anche quest'anno farò ripetizioni a suo figlio, ma io ho deciso che non andrò. Ho bisogno di sfogarmi. Sono una professoressa con la A, ma anche se fossi con la E, sarei arrabbiata lo stesso. E come? Perché non si usa il proprio figlio per portare a letto la giovane insegnante. Quel suo modo di fare è falso e viscido, non riesco a perdonarlo, uomo o donna che sia. Ma poi c'era lei che mi sbucava da tutte le parti. Lei che lasciava di proposito la porta aperta e io che regolarmente la chiudevo. Lei che quando finivo si era sciolta i capelli. Lei che mentre me ne andavo buttava là un «Ho pensato spesso a te», ma a suo figlio non ci pensa. Lui che ha bisogno di una mano con tutta la famiglia, compresa lei che lo ha riempito di vizi. E suo marito, piacente, alto, fine, intelligente, che guadagna un sacco di soldi. Così lei fa la bella vita, cioè niente. Non le manca nulla. E allora perché viene a cercare me? Ma qualche volta, proprio quando sono arrivata al limite della sopportazione, ho desiderato di strapparle i vestiti di dosso, poi buttarla sul letto e sfinirla di sesso, tanto da farle venire la voglia di non provarci mai più. Anche se poi ci ripenso e mi convinco che la cosa migliore sia uscire da questa situazione in silenzio e lasciarla nella sua falsità. Adriana. Insomma, Adriana, ha vinto lei. Ce l'ha fatta. Tu la disprezzi, ma la desideri. Tuo malgrado sei turbata. Parli della sua falsità, scusa, ma la tua? Questa donna ricca, forse stupida, senza discrezione, questa donna inopportuna che usa il figlio per adescarti, questa oziosa poco simpatica, nonostante tutto è ferma, fissa nei tuoi pensieri. Sì, ce l'ha fatta. Il suo desiderio ti ha catturata. È molto divertente il finale della tua lettera. È un piccolo capolavoro. Tanto odio e poi, per darle una lezione, le vorresti strappare i vestiti di dosso. Il suo corteggiamento ti ha provocato tanto odio che alla fine la vuoi disperatamente. Così distinto, ma perché poi se ci ripensi... Ma ripensarci non conta. Conta solo che comunque l'hai pensato. E il ripensarci è una pura convenzione sociale e culturale. Non esiste il ripensarci. Difatti esiste la parola pensiero, ma facci caso, mica esiste ripensiero. È un'entità inventata, perché è una cosa tanto finta che si chiama infatti ripensamento, cioè ritrattazione, negazione della verità. La frase in cui immagini di punirla è irta di sensualità, sfinirla di sesso, ma soprattutto, invece di dire tanto da farle passare la voglia, c'è un bel lapsus, tanto da farle venire la voglia di non provarci più, troppi, troppi indizi. Quello che domina la tua lettera è una gran voglia di questa disperata, sfacciata e sfaccendata.